A bordo campo di Dario Ricci. Un calcio al bullismo, questo è il nome di un progetto che arriva dai campi della Lega Pro. Lo sapete, qui a bordo campo siamo appassionati di calcio minore e quello della Lega Pro, per quelli che sono gli interessi di noi a bordo campisti, davvero tutt'altro calcio piuttosto che minore è. E allora questo progetto, un calcio al bullismo, sta prendendo corpo a Salò, dove il Feralpi Salò sta sviluppando appunto un percorso di educazione e formazione per i suoi giovanissimi calciatori. Ne parliamo oggi. Il nostro primo interlocutore è Marco Leali, direttore generale del Feralpi Salò. Benvenuto, dottor Leali, a bordo campo. Buonasera a voi, grazie. Allora, dottor Leali, un calcio al bullismo, progetto che come vi è venuto in mente a Salò? Perché insomma, oltre a pensare a promozione e retrocessione, vi è venuta anche l'idea di provare a educare i vostri giovani calciatori, no? Sì, noi siamo abbastanza attenti, anche se siamo una società piuttosto giovane nel calcio professionistico, però guardiamo senz'altro anche ai giovani e ovviamente alla loro educazione. Il progetto ci è sembrato molto proficuo e di conseguenza ci siamo buttati a capofitto con i nostri collaboratori, i nostri istruttori, coinvolgendo anche i genitori per far crescere i nostri giovani, diciamo, ecco. Ecco, quanti sono i ragazzi coinvolti da questo progetto e da che età vanno? Ma i giovani sono circa 200 che vanno dai 12 ai 18 anni, diciamo. Quindi ecco, una bella squadretta che hai messo in campo, no? Sì, diciamo che questo è il settore principale della nostra società, perché poi ne abbiamo anche altri in località limitrofe, a Lunato e Vestone, però abbiamo cercato di coinvolgere un buon gruppo in modo da riuscire in questo progetto, e sembra proprio che i primi appuntamenti abbiano detto questo, ecco, insomma. Eh sì, anche perché quel bullismo che poi spesso questi studenti giovanissimi conoscono a scuola è in qualche modo simile anche a quelle prove di forza, chiamiamole così, che spesso vengono messe in atto anche in uno spogliatoio di calcio. Sicuramente. L'importante è, come si suol dire, parlarne e coinvolgere il più possibile persone che seguono i ragazzi, quindi sia gli istruttori ma anche gli stessi genitori, in modo che, ma anche riuscire a coinvolgere proprio i giovani nel parlare di questo, in modo da cercare di combatterlo, ecco, e quindi anche nello spogliatoio, come diceva lei, ci può essere una sorta di bullismo che noi cerchiamo di debellare, ecco. Come hanno reagito i genitori? Perché magari una proposta formativa di questo tipo se la sarebbero aspettata più dalla scuola o da istituzioni tra virgolette sociali piuttosto che dalla loro squadra di calcio. No, direi che alla fine c'è stato un grande entusiasmo, una grande partecipazione, quindi direi che, anche se probabilmente, come ha detto, di solito vengo coinvolti con la scuola e così, ma anche sono abbastanza attenti anche per quello che riguarda la società calcistica, e quindi hanno reagito bene e si sono dedicati, direi, a 360 gradi. Beh, insomma, un risultato importante a bordo campo. Dottor Leali, un'ultima cosa: sa che noi qua a bordo campo ci mettiamo anche lo sfizio di non stare a vedere i risultati sul campo delle squadre, perché altre sono le cose che ci interessano come progetti di questo tipo. Ma il campionato per voi com'è andato, per il Feralpi Salò? No, direi che è andato bene, e abbiamo raggiunto una salvezza che era l'obiettivo principale con diverse giornate di anticipo, e abbiamo centrato anche l'approdo alla Coppa Italia Team Serie A, quindi direi che è andato molto bene. Speriamo di continuare così, noi siamo una società giovane che gioca con tanti giovani, e quindi il nostro intento è proprio quello di far crescere proprio il settore giovanile nostro, in modo che qualcuno alla fine riesca a approdare in prima squadra, e quindi questo è il nostro input, diciamo. Beh, insomma, allora, vittorie in campo e anche fuori dal campo con questo progetto, con un calcio al bullismo. Grazie a Marco Leali, direttore generale del Feral Pisalò, in bocca al lupo per il progetto e anche, chissà, per il prossimo anno magari arriva una bella promozione, no? Magari. Grazie a voi. Feral Pisalò quindi che scende in campo contro il cyberbullismo per formare i propri giovani calciatori a evitare proprio i rischi che possono arrivare dalla rete. E allora ne parliamo con uno dei collaboratori della società in questo progetto, Domenico Geracitano, autore fra l'altro di due importanti testi al riguardo, Gli amici di Evaristo e Gli amici virtuali, due libri che proprio mettono in guardia sui rischi del cyberbullismo. Benvenuto dottor Geracitano a bordo campo. Buonasera Dario. Allora dottor Geracitano, come avete lavorato nella Feral Pisalò per mettere in guardia i giovani calciatori sui rischi che possono arrivare dalla rete? Abbiamo fatto un bellissimo lavoro, nel senso che siamo partiti da quello che è il concetto principale del mondo reale, quindi del bullismo. Quindi abbiamo fatto degli incontri dove abbiamo parlato con i ragazzi di quello che è uno dei fenomeni, diciamo, negativi degli adolescenti, quindi facendo capire soprattutto che in una situazione di bullismo ci sono i tre attori, quindi il bullo, la vittima e lo spettatore. E abbiamo cercato con questi ragazzi di far capire quanto sia fondamentale la figura dello spettatore nell'aiutare sia la vittima ma anche il bullo a ritrovare la giusta via. E siccome crediamo che lo sport possa essere uno dei veicoli principali sulla quale poter diciamo così comunicare con i ragazzi, ma nello stesso tempo comunicare anche a chi non fa sport l'importanza del valore della vita, abbiamo cercato di parlare con loro e da qui è emerso quanto sia fondamentale lo sport anche nel mondo virtuale, nel senso che tanti di questi ragazzi, vivendo in maniera intensa e anche con degli obiettivi il mondo reale, vivono, diciamo, con una consapevolezza maggiore la virtualità. Ecco, le chiedo, dottor Geracitano, quali sono i rischi specifici che arrivano dalla rete per questi ragazzi che ambiscono, hanno come principale obiettivo quello di fare i calciatori professionisti? Cioè, un obiettivo così alto, così sovraesposto anche mediaticamente, è in qualche modo più attaccabile attraverso il web? Sì, è più attaccabile, però anche seppur è molto più facile attaccare i ragazzi che hanno una vita reale priva di emozioni, quindi invece in questo caso i ragazzi della Feralpi, avendo di per sé già un'intensa attività sportiva, sono già maggiormente tutelati, però vogliamo che siano loro anche all'interno del mondo scuola o all'interno del loro mondo anche extracalcistico, diventano degli esempi da aiutare gli altri ragazzi, perché spesso e volentieri il ragazzo che ha poca vita reale nel mondo virtuale, nel momento in cui è attaccato, è come se stesse sempre fuori, quindi come se stesse sempre dinanzi ai pericoli. E allora questi ragazzi, magari coinvolgendoli in quelli che possono essere le attività sportive, riescono anche a rafforzare quello che caratterialmente è la fragilità degli adolescenti nel mondo virtuale. Senta, le chiedo ancora una curiosità, sì. Io lo vedo, sono un caso patologico, sempre col BlackBerry in mano, così pure sì. In famiglia, ormai iPhone, iPad, è difficile per noi adulti, tra virgolette, immagino che per questi ragazzi di 16-17 anni staccarsi da queste periferiche, chiamiamole così, sia ancora più complesso. Da questo punto di vista, quale strategie attuate, quali consigli date? Sì, infatti questo che hai detto tu, Dario, è verissimo, perché d'altronde noi abbiamo visto il mondo virtuale che ci è arrivato dopo, cioè quindi noi conosciamo il mondo senza la virtualità, invece queste generazioni, quindicenni, sedicenni, vivono in un contesto dove non conoscono il mondo senza la virtualità. Come oso dire io, sono dei ragazzi trifase, cioè che in uno stesso momento fanno diverse cose, quindi li vedi magari che parlano con una persona, però nello stesso tempo stanno postando qualcosa nel mondo virtuale. Noi a loro chiediamo di accendere il cervello prima di accendere un computer o prima di connettersi alla rete, e soprattutto di adoperare la rete per costruire, quindi per trasportare quelle che possono essere i valori della vita. E i ragazzi, questi della Feralpi, abbiamo fatto questo bellissimo percorso, ci hanno ascoltato e abbiamo abbiamo interagito tantissimo con loro, anche con l'ausilio dei gemelli filippini che sono venuti all'interno di questo incontro. E quindi di per sé l'input che noi stiamo cercando di dare attraverso anche questi due testi che loro hanno letto è quello di promuovere il mondo virtuale come un'opportunità e non come un problema, insomma trasformare internet in un nuovo obiettivo che può essere quello di veicolare anche, diciamo così, il fair play del calcio e soprattutto di quando si parla di calcio, di far capire, di accettare anche la sconfitta, perché dopo dalla sconfitta si possono costruire le più grandi vittorie, ecco. Beh, discorso che come si fa a non condividere, utilizzare la rete, il web come uno strumento, ma prima di tutto accendere il cervello, anche perché quello magari ti avvicina anche alla linea di porta, che vuol dire poi gol per, in questo caso, il Feral Pisalò. E allora grazie a Domenico Geracitano, autore, lo ricordo, di questi due testi, Amici di Evaristo e Amici Virtuali, che proprio introducono ai segreti del cyber bullismo, e grazie per essere stato oggi il nostro ospite qui a Bordo Campo. Grazie a voi Radio 24. A Bordo Campo. Da anni è ormai la squadra leader in Ucraina e una delle realtà emergenti del calcio europeo. Oggi a Bordo Campo parliamo dello Shakhtar Donetsk, i campioni d'Ucraina che quest'anno, tra l'altro in Champions League, hanno incrociato anche il cammino della Juventus, perché vogliamo capire qual è il percorso che una squadra emergente come lo Shakhtar sta seguendo per arrivare al massimo palcoscenico continentale e, perché no, mondiale. Allora, nostro ospite d'eccezione, il tecnico dello Shakhtar Donetsk, il grande Mircea Lucescu. Benvenuto a Bordo Campo, mister Lucescu. Ecco mister, ci spieghi un po' come siete riusciti nel giro di pochi anni a Donetsk a creare una delle squadre rampanti, emergenti nel panorama europeo. Abbiamo costruito bene, abbiamo lavorato bene, abbiamo iniziato a lavorare qua. Dinamo Kiev ha vinto 13 campionati di seguito. Non era facile fare meglio di questa squadra. Ho trovato qua un centro con le strutture perfette per poter lavorare bene. Abbiamo pensato, in caso che facciamo buoni risultati, di costruire un stadio presente sicuramente per il pubblico, perché all'inizio il pubblico non veniva in grande numero. Abbiamo ristrutturato la squadra cercando di portare qua giocatori che possono creare spettacolo per attirare la gente, perché attirando la gente si crea una disponibilità eccezionale alla città di sostenere questa squadra. Abbiamo preso i giocatori giovani e poi li abbiamo fatto crescere, non dimenticando che la cosa più importante era di vincere. Sì, abbiamo vinto in ultimi 9 anni, 7 campionati, 4 coppe, 4 supercoppe, una coppa UEFA. Vuol dire che abbiamo bene lavorato e allo stesso tempo abbiamo lasciato partire dei giocatori importantissimi, cercando di equilibrare sempre il budget. Abbiamo venduto come abbiamo comprato, sin problema, non abbiamo perso. Sembrate una squadra tedesca o inglese per la vostra organizzazione, mister. Sembra, sì, può essere così considerata. Ci manca il campionato in quei paesi, però l'organizzazione del club è molto, molto ben organizzata. Si è lavorato molto bene a livello di organizzazione di club. Cosa manca invece per fare un passo in più in Champions League? Quest'anno è stata... No, dobbiamo pensare a fare un passo dopo passo. Già era importante di creare un'immagine positiva in Ovest Europa, perché alla fine il football europeo, il football dei paesi dell'Est, dell'Ovest, non dell'Est. L'Est inizia adesso, crearsi le strutture, organizzare il campionato, sono solo 20 anni da quando il football est è diventato football professionistico. E per questo noi dobbiamo lottare con la tradizione, con l'istoria, con la potenza economica, con la potenza politica sportiva delle altre, con gli stadi pieni, con le televisioni, con gli sponsor, con quello. Non è facile. Per questo io ho sempre detto ai giocatori, dobbiamo giocare ogni anno due volte meglio degli altri per poter essere accettati o rispettati. In questo senso facciamo passo dopo passo. E allora grazie a Mircea Lucescu per essere stato nostro ospite d'eccezione oggi a Bordo Campo. Ma come si costruisce un marchio vincente e nuovo nel mondo del calcio europeo che ha tradizioni e nomi così radicati e consolidati? Lo chiediamo al nostro secondo ospite, Manfredi Ricca, Managing Director della sede italiana di Interbrand, società di consulenza specializzata nella valutazione economica dei brand. Benvenuto dottor Ricca. Allora, ci spieghi un po' come nasce il brand Shakhtar e più in generale come si costruisce un marchio vincente per una società di calcio emergente. Ma credo che l'elemento distintivo di partenza dello Shakhtar sia stato quello nel 2006 di aver avuto una visione di ampio respiro e quindi di essersi dato una missione calcistica, cioè di portarsi a casa un trofeo continentale nei successivi 5 anni, cosa che poi effettivamente nel 2009 è riuscito a fare. E parlo di visione perché quello che rende il marchio dello Shakhtar unico, a mio modo di vedere, è proprio il fatto che, al di là di essere un logo, ma è la rappresentazione di un'ambizione e appunto di una missione. Shakhtar si è dato come elemento sottostante al proprio brand la volontà di essere l'ambasciatore del calcio ucraino in Europa e l'ambasciatore del calcio europeo in Ucraina, e questa è diventata la piattaforma su cui ha costruito tutto quanto, inclusa ovviamente l'identità visiva. Ecco, il calcio dell'est europeo ha avuto in passato altre grandi formazioni, prima e dopo la caduta del muro di Berlino. Come invece evidenziare la peculiarità del marchio Shakhtar rispetto proprio a questo calcio di grande tradizione? Credo che la tradizione sia il termine forse più appropriato. Lo Shakhtar è stato in grado di ricatturare la propria tradizione, un club che è stato fondato nel 1936 ed è il club dei minatori, Shakhtar vuol dire minatore in ucraino, ma è riuscito a evadere dalla nostalgia e a sposare il futuro. Quindi è un brand che ha deciso di fare patrimonio della propria tradizione, della propria storia, di raccontarla alle nuove generazioni, ma di farlo avendo soprattutto una visione futura e una grande ambizione da un punto di vista sportivo, ma anche come brand che si deve imporre. Quindi è sfuggito a quella nostalgia che ogni tanto accompagna i club post-sovietici e si è posto l'obiettivo di diventare il simbolo calcistico della nuova Europa. Ecco, le chiedo, a lei che è esperto in materia, proprio di questi giorni sono le riflessioni intorno alla fuga dall'Europa League di molte nostre squadre, no? Del nostro campionato. Addirittura Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Milan, ha detto andare in Europa League è una sorta di retrocessione in Serie B, no? A livello europeo. Ecco, questi discorsi invece le chiedo quanto incidono sulla costruzione del brand, dell'immagine di una squadra calcistica? Io credo che siano delle palestre essenziali, perché l'Europa League può essere interpretata come il calcio di domani, e credo che il calcio sia non tanto e non solo una questione di chi è arrivato, ma di chi sta per arrivare. È un torneo che ha riservato non poche sorprese, se pensiamo che effettivamente nel 2009 lo Shakhtar, che 3 anni prima era fondamentalmente un club, diciamo, prevalentemente di tradizione locale, è riuscito a imporsi sul palcoscenico europeo. Beh, credo che questo sia senz'altro un torneo che merita attenzione per coloro che amano il calcio e soprattutto per coloro che vedono il calcio come un'ambizione e vedono in questi club il realizzarsi di un sogno che li porta ad andare al di là di quelli che sono i confini che in precedenza avevano. Non si rischia, a fare il discorso che fanno le squadre italiane, ad apparire oggi nell'Europa del terzo millennio calcistico un po' provinciali? Io personalmente credo nel calcio e nei brand come non tanto quello che hai fatto, ma quello che prometti di fare, quindi non tanto quello e non soltanto quello che hai raggiunto, che ovviamente è importante, ma soprattutto quello che farai in futuro, perché è lì che passeremo il resto della nostra vita. E con il brand dello Shakhtar abbiamo voluto interpretare questo, cioè una tradizione che appunto lunga 70 anni e passa, ma una voglia di riscatto, una voglia di primeggiare, che credo sia nello spirito più puro e autentico del calcio, e quindi vedo l'Europa League in definitiva come un'ottima opportunità per questi club per sfondare sul piano continentale. Però ecco, anche un Inter, un Milan, una Juventus, un Napoli o una Roma, se, o una Lazio, così facciamo tutti contenti. Però se la vincessero non sarebbe poi così male, no? No, direi che non sarebbe assolutamente male, perché è un trofeo, ma soprattutto perché è chiaro che le aspettative di alcuni club con questo blasone possono essere ben superiori rispetto all'Europa League. Però di nuovo il calcio è una questione di, credo, cadere, rialzarsi, progredire e comunque sia vincere, fondamentalmente dimostrare quello che si è in grado di fare. Ci sono gli anni in cui si ha la possibilità di farlo sul palcoscenico della Champions League e ci sono degli anni in cui invece si tratta dell'Europa League. Però credo che l'Europa League non debba essere vista come una sorta di trofeo per le squadre minori, ma debba essere vista come un trofeo del calcio di domani. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia, potete riascoltarci, ve lo ricordo, dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima, sempre alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.